fino a quando non è ufficiale io non posso dire niente. Quando è ufficiale io posso parlare, ok? Grazie. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma se andiamo a vedere i numeri, non è che mi ha fatto grandissimi numeri da quando sono arrivato io in casa. Dobbiamo essere bravi. Domani giochiamo contro una squadra che tranne la partita con la SPAL, sia col Bologna che in Coppa Italia, una squadra viva. Non si pensa né alla Lazio martedì né alla Juventus fra una settimana. Noi dobbiamo pensare solo di riuscire a portare 3 punti a casa domani. Domani dobbiamo far finta che se vinciamo andiamo in Champions League, l'ultima partita. Io penso che questo è il ragionamento da fare. Dopo io non sto facendo nessuna terapia, io sto lavorando duramente, so che stanno facendo fatica, so che certe volte arriviamo a settantesimo e sono morti. Sono tanti giocatori che stanno giocando ogni 3 giorni, abbiamo cambiato metodologia di lavoro, stanno giocando sempre gli stessi. Può succedere che i giocatori non ne hanno più. Fra 15-16 allenamenti si potrà vedere una squadra che riesce a dare continuità anche a livello fisico. Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, buongiorno, buongiorno a tutti voi, a Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccoci qui, ciao. Eccoci qui. Pierluigi Pardo naturalmente. Biga. Allora, questo è Gattuso, uniche parole della vigilia che abbiamo al momento, domani anche Lazio-Samp, Sassuolo-Torino e appunto Napoli-Fiorentina, ma il tema è un altro, ovviamente ogni tema è quello buono. A proposito, vi chiedo messaggi vocali WhatsApp 349-238-6666 per fargli auguri a Dino Meneghin, che più tardi, verso la fine del programma, avremo il nostro ospite, domani fa 70 anni. Però lo stesso numero vale anche per il tema del giorno, e cioè l'Inter che fa strike in un colpo solo. Ieri abbiamo parlato di un aeroporto intasato e i passeggeri che non si muovevano, manco fossero Tom Hanks in quel famoso film The Terminal. Ebbene, in un colpo solo sblocca Eriksen, Giroud, Young, che è già arrivato a Milano, e adesso anche Spinazzola, per cui si è risolto il problema della formula contrattuale con la Roma. Lapo De Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, ben trovati. Ciao a tutti. Ciao. Allora, come va? Come va? Benissimo. Non ti senti, scusa, posso farti una domanda? Non ti, sì, senti clamorosamente poco produttivo rispetto a Marotta? Cioè, non ti senti in colpa? Tu che, sì, hai fatto, sì, stamattina? Che hai fatto? Guarda, ho un piacevole senso di colpa, ma sai, a Radio Nerazzurra praticamente botti, fuochi d'artificio. Sì, ma cosa hai, anche perché... cosa hai fatto stamattina? Niente. Ti sei lavato qualunque cosa, ti sei andato a fare la radio. Nello stesso, sì, momento lui ti faceva Spinazzola, Giroud. Sì, sì. Guarda, questo allora, senso di colpa me lo prendo, me lo tengo stretto, Pierluigi, così almeno, che bello per questo senso di colpa, veramente. È chiaro che il domandone, per me, io sono sempre stato iscritto al partito Cassano, come, sì, come Pierluigi sa. Beh, tu però non convinto come me, Cassano. Io sono tessera numero uno. Tu? Del partito, che sono il fondatore. Vabbè. Ma cosa dice il partito Cassano? Partito Cassano, che qual è la mozione? L'Inter vince lo scudetto. L'Inter vince lo scudetto. No, io mi disiscrivo, so. Allora, se avevo preso la tessera mi disiscrivo anche dopo questo mercato, anche se arrivano tutti e quattro. Cioè, io continuo a pensare, ma guardate che se mi sente Conte è contento, perché vuol dire scaricarsi anche un po' di responsabilità. Io continuo a pensare che il campionato in Italia abbia una favorita naturale, anche se arrivano Eriksen, Giroud, Ashley Young, Spinazzola, insomma, anche se l'Inter fa in maniera evidente e concreta un passo avanti, ma quella distanza lì secondo me resta. Basta dare un'occhiata alla formazione dell'altra sera della Juventus, teoricamente infarcita di riserve. Però attenzione, perché questo è un mercato che magari, al di là del colpo Eriksen che è fantastico, magari può essere discutibile sul profilo anagrafico di un paio di rinforzi, penso soprattutto ad Ashley Young, ma anche a Giroud fa 34 anni a settembre. Però è un mercato fatto di calciatori di profilo internazionale. Vi cito un solo dato: Giroud nel Chelsea di Conte ha fatto 11 gol in Europa League, perché noi continuiamo a dimenticare che magari sarebbe bellissimo che l'Inter facesse una stagione da protagonista anche in Europa. Vero, però ragazzi, quanto si è accorciata la distanza a cui fa riferimento? Secondo me parecchio. Puoi scrivere un WhatsApp. Sì, puoi scrivere un WhatsApp a Cassano e sentire lui cosa ne pensa, Magari non lo dice. Perché la prima volta che Cassano ha pronunciato questa frase credo sia stata ancora prima di leggerla sui giornali in qualche intervista in piscina a Genova fine luglio inizio agosto. No, lì non c'ero, ma no, l'ho sentito a tiki-taka. E secondo me lui un pochino l'ha sparata, no? Nel senso che quello che lui voleva dire e che secondo me si sta verificando, si sta realizzando, è che l'Inter con Conte avrebbe clamorosamente accorciato le distanze. Poi lui ha il gusto, diciamo, dell'iperbole e quindi si è lanciato su questa cosa qui. Se lo vincerà o non lo vincerà non lo so, però quello che sta facendo l'Inter è già straordinario e questo mercato comunque aumenta le possibilità. Poi anch'io sono d'accordo razionalmente che la Juve secondo me ha qualcosa in più, nonostante tutto fosse anche solo l'abitudine a qualcosa in più, però ragazzi, l'Inter tutto quello che poteva fare lo sta facendo, ecco. Molto banalmente, vi chiedo a tutti, se la distanza era 10 dopo questo mercato quant'è? 1,5. Si è quasi dimezzata. Beh, però non possiamo dimenticare che cos'è la rosa della Juventus in questo momento. Cioè, certo, è chiaro, noi abbiamo davanti il girone d'andata dell'Inter, che è qualcosa di straordinario. Ha fatto 46 punti, è oltre i 90. Stiamo parlando di qualcosa che non era nemmeno immaginabile in queste dimensioni. È chiaro che questo mercato ti rinforza, però la Juve oltre i 90 ci va oramai. Così, come se ci si alza la mattina, si fa al bar a fare il cappuccio. Quindi tu dici 6, Pierluigi 3, massimo 3 e mezzo, Lapo? Io dico 3. No, io dico anch'io che viene dimezzato, ma non è che voglio fare il profeta di Mania Vantologi, che di cui devo dire sono anche un fedele servitore, ma porto avanti il concetto. Qui non si tratta tanto di quest'anno, perché quest'anno l'Inter certamente cerca di accelerare il processo di avvicinamento alla Juventus, ma soprattutto la vera bella notizia per i tifosi dell'Inter è soprattutto il fatto che per gli anni a venire questo tipo di distanza, questo spread tra Juventus e tutte le altre, Inter compresa, comincia finalmente ad assottigliarsi. Naturalmente ci vuole qualcosa di più, perché lì, ricordo, non avendo uno stadio di proprietà, a proposito, non se ne parla già più, come possibile? Ad ogni modo, la questione non è tanto per quest'anno. Se l'Inter lo vince, tutti contenti, intendo naturalmente gli interisti. Se non lo vince, vuol dire che l'anno prossimo l'Inter riparte, e questa volta non deve ripartire da un quarto, quinto, ottavo posto, ma riparte da un secondo o terzo posto che sia, e con una squadra finalmente che ha un dirigente di riferimento, un allenatore tra i più importanti al mondo e una squadra che finalmente alle pedine giuste, quindi direi che è un enorme passo avanti, quindi ripeto, non tanto per quest'anno ma per i prossimi anni. Anche se un mercato di genere come questo un po' di pressione te la mette, certo, perché se tu a 46 ti sei reso conto che puoi provare a vincere, se poi arrivi secondo magari sei un po' più scontento. Che non conti nulla. Se non c'è la pressione vuol dire che non conti nulla. La Lazio, che stiamo non so perché ignorando, ma insomma la Lazio adesso ce l'ha la pressione, ma il fatto che abbia la pressione è un segno straordinario di quanto è cresciuta. Cioè non si può vivere tutta la vita che se le cose vanno bene sei figo e poi non arrivano mai gli esami arrivano sempre, e Conte, se parliamo di pressione, mi sembra uno anche abbastanza pronto a gestirla, no? Sì, anche se la distanza adesso anche dalla Lazio per l'Inter cresce. A proposito, c'è un'ultima ora, resta bloccato lo scambio Politano-Spinazzola, non c'è ancora accordo tra Inter e Roma, ma credo a questo punto si farà, perché manderemo i caschi blu dell'ONU per risolvere fuori questa situazione. Anzi, lanciamo un appello a tutti i portatori di pace, ho visto passare prima Cruciani, se vuoi mandare Cassano. Pardo è già molto molto democristiano, magari rischi anche che lo fanno. Invece noi ci mandiamo quelli che... La storia qual è? Allora, balla la formula, no? Balla lì è difficile da capire. Siccome Spinazzola ha le idoneità agonistiche a tutto, quindi non c'è il problema di visite mediche andate male. Evidentemente c'è qualche dubbio sulla sua condizione, perché a dicembre ha giocato un minuto e non è solo una questione di scelte di Fonseca, ma c'era anche qualche problema suo di condizione, qualche infortunio muscolare, eccetera. Quindi è chiaro che c'è stata qualche perplessità, probabilmente c'è anche qualche ruggine tra Marotta e la Roma per quello, sì, che è successo quest'estate. Adesso stanno discutendo su che cosa significa 15 presenze, cioè 15 volte l'ultimo quarto d'ora fa 15 presenze, dobbiamo fare il conteggio dei minuti. Poi magari settimana prossima si passerà al conteggio dei secondi, cioè se 15 minuti tutti insieme valgono come 15 minuti in due partite. Io credo che alla fine questa cosa si debba fare. Primo perché mi suona difficile pensare che Politano, che ha fatto le foto, torni a Milano come se niente fosse, ma anche Spinazzola che è bloccato in albergo. Secondo il mercato di gennaio, cito Marotta, che lo ripete un po' come Pier quando dice il calcio è liquido, Marotta dice sempre è un mercato di opportunità. Questo scambio è l'opportunità per Roma e Inter di sistemarsi due investimenti, due questioni, esatto, di bilancio, uscendone alla grandissima. Quindi è una questione tecnica ed è anche una questione di bilancio, è una questione economica. A proposito di questo, Lapo prima diceva distanza sul campo, no, tra Inter e Juventus, la sottiglia. Sì. Io voglio rilasciare, cos'era Beninazzo ieri, era qua ieri, no, Pierluigi mi pare, quando ha detto che... Tra l'altro ieri. Esatto, altra distanza è quella tra societaria, tra Juventus e Inter. Facciamo che possiamo dire che ballano un paio d'anni di distanza tra Juventus e Inter, però l'Inter si sta anche lì avvicinando molto rapidamente alla Juventus, pure dal punto di vista societario. Guarda, lato senso. Se posso risponderti io, in termini assoluti no, secondo me la distanza è ancora un po' più ampia, perché in mezzo la Juventus ha un vantaggio che non è quantificabile in termini di anni dello stadio di proprietà, ha il vantaggio che non è quantificabile in termini di anni della continassa, di tutta quell'area, di quello che significa, e l'Inter siamo ai masterplan presentati, siamo alle discussioni con il comune, oggi il sindaco Sala, così aggiorniamo, ha detto che non c'è novità. Stanno aspettando le squadre, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Però per vincere sul campo non è necessario essere alla pari. E invece per vincere sul campo l'Inter è oramai entrata in quello spazio di distanza per cui si può fare un progetto sportivo che poi magari risulta vincente in campo. Un po' come la Champions League, non vince sempre chi è il più ricco o il secondo più ricco. Vince spesso chi è il sesto, settimo, purché il rapporto, la distanza ti consenta di fare un progetto sportivo vincente. Ecco, l'Inter secondo me sta entrando, è entrata lì. Perfetto, sì, posso aggiungere una cosa, deriva anche dal fatto che lo stadio ha un valore ed è molto importante. Ora, per poter avere un tipo di distanza che a questo punto venga abbattuta, certamente c'è bisogno di un bene immobile che possa creare naturalmente dei ricavi determinanti, perché oggi tutte le società più importanti al mondo hanno uno stadio di proprietà, e l'Inter in questo senso, se volesse o dovesse inserirsi nei primi 10 top club al mondo, sarebbe un unicum se non avesse uno stadio. È altrettanto vero che ci sono state delle squadre che, ha ragione Giovanni, effettivamente hanno vinto sul campo, ma sporadicamente, una tantum, perché se comunque penso al Borussia Dortmund o all'Atletico Madrid, rappresentano dei casi virtuosi, ma sono appunto degli unicum e oltretutto vincono ogni tanto, comunque arrivano a lambire la vittoria senza per questo tenerla. Ma se tu vuoi mantenere lo status, visto che oggi la forbice non soltanto si è aperta, ma ormai andiamo veramente sempre più diretti verso la Superlega, notizia di oggi, forse ne parlerete, del fatto che vogliono fare un nuovo format della Champions League dal 2024 che si assomiglia molto a quello di 15 anni fa con due gironi, eccetera, eccetera. Insomma, di fatto noi andremo verso una direzione che porta all'esasperazione di certi contenuti, tu i campioni andranno soltanto in quelle poche squadre e avremo di fatto tutto il resto dei club che invece staranno nella periferia dell'impero. Sì. L'Inter sta prendendo l'ultimo treno per cercare di stare sul treno con che conta. Ragazzi, l'Inter nell'ultimo anno ha fatto dal punto, cioè adesso se io penso a Marotta, al giorno dell'arrivo di Marotta, e valuto la situazione, la crescita che l'Inter ha fatto nell'ultimo anno da mille punti di vista, dal punto di vista delle regole, della disciplina, le scelte anche dolorose, perché sono partiti tre grandi giocatori, e lo dico con la G maiuscola, sono partiti perché c'era bisogno di dare disciplina, di dare regole, e oggi l'Inter è su tutti i tavoli, se la gioca con la Juve dal punto di vista economico ancora dietro, sicuramente dal punto di vista dello stadio ancora dietro, ma è un'interlocutrice, un anno fa non lo era. Quindi secondo me il passo avanti è grandioso. È enorme, ma quello che sempre ieri con Beniato si diceva, ok, lo stadio è importante per il Milan, per l'Inter, ma ancora più importante per il Milan, che deve, insomma, per le ragioni che conosciamo, che è inutile stare a ricordare. È un progetto molto di là da venire. Giovanni dice che è ancora 0-0. Ma è possibile che a un certo punto Inter e Milan non possano andare ognuno per la sua strada, come fanno tutti i club inglesi di questa terra, che anche a Londra ci sono 1000 stadi, il Tottenham, ok, non posso più farlo qui, White Hart Lane lo faccio da un'altra parte, mi faccio lo stadio Highbury, e vabbè, pazienza, Highbury non c'è più, mi faccio lo stadio l'Emirates, e insomma a un certo punto credo ci sia un problema nella natura stessa delle due proprietà, soprattutto per il Milan è una proprietà transitoria, l'investimento dello stadio, che poi insomma è inutile che lo ripetiamo, non è solo lo stadio è metà dell'investimento, c'è tutto il resto, ballano 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, poi insomma i costi, la verità è che la riga la tiri quando hai finito, e si parte da 1,2 miliardi, e chiaramente è difficile in questo momento, credo, immaginare a Milano due proprietà, due club che partano con la possibilità e con l'idea di fare entrambe quel tipo di investimento, però almeno riuscissero a fare quello che hanno scritto nero su bianco sulla carta. Certo. Sarebbe già un passo epocale, sarebbe già una svolta. Il fatto che si sia partiti con grande entusiasmo in autunno e ci si sia man mano incartati, esatto, in questo percorso, che non in parte è legittimo, perché sì, è giusto che il comune tuteli anche gli interessi pubblici e apra una trattativa, ecco, questo secondo me è sconsolante, perché noi ci siamo abituati a considerare Milano la capitale morale economica d'Italia, dove certe cose anche con la burocrazia si potevano sistemare, nel senso si potevano affrontare nei tempi giusti, e invece qui abbiamo l'impressione che ci si stia infilando nello stesso tunnel. Infatti ieri si è parlato, Gruppo Arnault ha detto, beh, a noi il Milan, la squadra di calcio, non interessa, non stiamo trattando, se ci fosse tutto il pacchetto, allora a quel punto parliamone. Ci fermiamo un istante, torniamo subito, 800 24 00 24, per le telefonate. Ma l'Inter fa strike, voglio dire, cosa fanno? Collezionano esterni sinistri, Asamoah, Young, anche Spinazzola, ma secondo me ancora dietro la Juventus, davanti dovrebbe avere più alternative. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Con gli ultimi acquisti sicuramente la rosa dell'Inter è migliorata, però secondo me quella della Juve rimane più forte e più completa. Però l'Inter c'ha il valore aggiunto Conte e quindi forse adesso sono pari. 349-238-6666, WhatsApp vocali, mentre ci sono notizie in divenire sullo scambio Politano-Spinazzola, mi diceva Giovanni. Ora, adesso proviamo a approfondire. Che il blocco di cui parlavamo prima in realtà si è avvirato rapidamente in una trattativa saltata, addirittura con rientro pronto dei giocatori, ciascuno alla rispettiva destinazione, che per Politano in questo caso torna a essere l'Inter, e per Spinazzola la Roma. Non sarebbe stato raggiunto l'accordo, parlavamo prima insomma, sì, sui dettagli e sui parametri di questo prestito con obbligo di riscatto, che di fatto era poi un diritto di riscatto mascherato, perché c'era questa condizione delle presenze dei minuti, e quindi la situazione risulta questa. Sì, volevo dire due cose. Primo, che la serie fra Politano e Spinazzola è disponibile su Netflix dalla prossima settimana, perché veramente è una delle vicende. Però settimana più prossima sarà ancora aperta, secondo me, esatto, fino al 31 magari. Ma ne cominciano ad andare in onda i trailer, perché sta diventando una vicenda incredibile. No, volevo fare anche a costo che sembri un endorsement, se c'è una città e se c'è un sindaco che credo non possa per il suo DNA essere considerato immobilista e burocrate, è Milano, città nella quale vivo metà della mia settimana, che insomma da questo punto di vista è all'avanguardia, e credo anche Sala, insomma. Quindi è chiaro che le società si devono muovere, l'ho detto mille volte, è molto bello, è molto positivo, è molto sano che le società vogliano un nuovo stadio, è assolutamente un segno di dinamismo, però poi c'è anche un interesse pubblico e tutto sommato da cittadino sono anche contento che ci sia un sindaco che prima di dare un ok faccia tutte le valutazioni del caso. E sul discorso di Juve-Inter distanza azzerata, io credo che non sia azzerata, però sicuramente insomma l'Inter tutto quello che può fare lo sta facendo. Poi basterà, non lo so, anch'io penso che la Juve abbia qualcosa in più, però tutto quello che può fare l'Inter dal punto di vista tecnico, dal punto di vista manageriale, certo, mi pare che... Ragazzi, non sta lasciando nulla di intentato. Ragazzi, ecco. Lo ringrazio molto. Abbiamo pescato al volo Marco Barzaghi, che era con noi ieri e che magari ci può dire qualcosa di più sullo scambio Politano-Spinazzola. Marcone, grazie. Sì, grazie a voi. E ormai è una top opera perché rimaniamo a quello che ci siamo detti ieri, che era saltato tutto. C'è stato questo tentativo di riaprire lo scambio nonostante i rapporti si fossero usurati ulteriormente tra Inter e Roma, però ancora non c'è accordo per il riscatto di Spinazzola, soprattutto queste presenze obbligatorie da fare per poi riscattare il giocatore, e sembra che la trattativa sia di nuovo saltata con molto pessimismo che filtra, tanto che circola con insistenza anche il nome di Moses, che sarebbe l'alternativa per l'Inter, giocatore che Conte ha già avuto al Chelsea, è in prestito in Turchia e apprezzerebbe molto. Il mitologico filtra pessimismo, che è una delle frasi strepitose di tutti i periodi di mercato. Faccio una proposta definitiva, così la sblocchiamo. Facciamo i minuti di 45 secondi. No, secondo me finisce con prestito più diritto di riscatto, obbligo a certi parametri, però molto complicati, soltanto di Politano. Con controriscatto e prestiti. No, solo di Politano, perché mi pare chiaro che su Politano, insomma, si sono tutti esposti molto. Sì. È chiaro che la Roma non può spendere adesso 27-28 anche milioni su Spinazzola, così non si scherza, perché è vero che non ha fatto la foto con la sciarpa dell'Inter però mancava solo quella, mancava veramente solo quella. No, ma io volevo chiedere una cosa invece a Marco, visto che ne approfittiamo e ce l'abbiamo qui. Se allora noi abbiamo davanti ancora 10 giorni di mercato più o meno, quindi in realtà lo spazio per rimettere in piedi una trattativa con visite mediche già fatte potrebbe anche esistere, se non è forse questa gelata di un venerdì pomeriggio, anche il fatto che i due club rivogliono il calciatore per il fine settimana a casa, e poi magari se c'è da parlarne se ne riparla da lunedì. È una possibilità, però appunto sentendo le due campane mi sembra anche che sia difficile cercare arrivare a un accordo, anche se non possiamo escludere niente, vediamo appunto in questi giorni come da un momento all'altro cambia tutto e il contrario, quindi aspettiamo. Però il fatto che l'Inter si stia muovendo con decisione su Moses è forse un indizio che insomma ci siano pochi margini per chiudere questo scambio. E comunque disponibile tutto su Netflix, ci diceva Pierluigi Pardo, dalla prossima settimana. Noi faremo un podcast e Marco Barzaghi farà ovviamente i trailer. Ciao Marco, grazie. Grazie a voi. Ciao. Allora, un ultimo giro di opinioni è questo, molto rapido. Adesso noi dovremmo, la verità è che noi non fare il mignottone, noi dovremmo ricominciare Pier dall'inizio, siccome non sono più Eriksen, Giroud, Ashley Cole e Spinazzola. La domanda è: solo con gli altri tre e saltato a fare Spinazzola, quanto si riduce, se si riduce gap tra Juventus e Inter? Se adesso ricominciamo, stando a Pierluigi Pardo, si passa da un 3 a un 3,50. No, per me Eriksen, chiaramente l'ho detto mille volte, Vidal secondo me per il presente era un colpo più adatto, ma saltato di tutto, Vidal, di tutto. Sì. Io ragionalmente penso di sì, poi sai, abbiamo ancora 10 giorni davanti, però Marotta non escludo che mi bussi sotto casa fra un quarto d'ora e mi provoca qualcosa, perché mi sembra bionico in questa fase. Quindi no, al di là di tutto, Eriksen è un grande acquisto, probabilmente rispetto a Vidal è più di prospettiva che di immediato, però è già un grande giocatore, cioè stiamo parlando di un grande giocatore sul quale sicuramente c'è un po' da lavorare anche in termini di rapporto con i compagni. Vidal era uno che mettevi lì ed era pronto da subito, però Eriksen è un grandissimo acquisto per me, certo. quindi resti sul 3 anche senza Spinazzola. Anche due, anzi forse uno, anzi magari anche zero. Lapo De Carlo, l'ultima cosa, poi vado avanti con i miei compagni di banco. Ruolo dei nuovi nell'Inter, lasciamo stare Spinazzola, vabbè, quello lo vediamo. Facciamo Giroud, Ashley Young, Eriksen. Mi sembra chiaro, Giroud backup di Lukaku, gli altri due? Attualmente, immediatamente? No, già basterebbero questi, però vorrei fare un piccolo appunto, nel senso che non è che adesso se salta Spinazzola adesso le distanze rimangono quelle di prima, evidentemente. Però l'Inter sta facendo un lavoro che è basato anche sulla prospettiva, perché Eriksen non è un giocatore attualmente così pronto come lo era soltanto 6-7 mesi fa. Eriksen, io devo dire che ho anche il vantaggio e la fortuna di fare tutte le telecronache del Tottenham, di cui sono peraltro un tifoso abbastanza di quelli quasi oddio, come l'Inter. Oddio. Sì, da sempre, sul tifoso del Tottenham. È una sorta di perversione mentale. Sono malato di Tottenham. Sì, te lo assicuro. Malato di Tottenham, proprio. Fatto finta di non sentire. No, invece devi sentire ad alta voce. Sono tifosissimo del Tottenham, lo dico ad alta voce. E devo dire che il Tottenham, che ha avuto un Eriksen che quest'anno ha fatto 4 presenze da titolare, voleva andare lo scorso anno lontano dal Tottenham, andare al Real Madrid. Lui c'è rimasto, gioco forza. Ha giocato quindi quest'anno sotto tono e giocando con l'infradito. Quindi evidentemente è chiaro che non ti arriva nel migliore dei modi, ma soprattutto però arriva con una cifra che non è congrua, è di più. Cioè stiamo parlando di un giocatore che varrebbe 80 milioni e che ti arriva per 15 più 2 o 3 di bonus che sia, quindi è una cifra straordinaria. Questo è il fatto che comunque l'Inter può pensare anche a Vidal adesso, perché casomai è Vidal quello che ti può dare un valore aggiunto. Quindi abbiamo detto Giroud per l'attacco, Eriksen per fare il trequartista, cambiare modulo dell'Inter, un esterno come Ashley Young. Se poi fino al 30 puoi provarci per Vidal, perché deve ancora capire col nuovo allenatore Setién se intende schierarlo da primo minuto oppure una tanto come faceva Valverde. Lo fai con tutta calma, ne hai le possibilità. Il grosso è fatto. Allora, grazie Lapo grazie De Carlo. Voi, ci fermiamo per la borsa, poi continuiamo su questi discorsi. Mi raccomando. WhatsApp di auguri a Dino Meneghin, che sarà con noi più tardi. 349-238-6666. Dopo la borsa parliamo anche della Juve. Io sono milanista, ma un bello scambio Spinazzola-Suso. Grazie. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800-24-0024. 800-24-0024. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Lo sai, ho un'auto nuova, un nuovo contratto di telefonia, una nuova banca e presto farò una vacanza da sogno. Hai vinto la lotteria? No, mi sono associato a Confcommercio. Tanti servizi e condizioni vantaggiose per farmi risparmiare e rendere la mia impresa più competitiva. Vai su associati.confcommercio.it. Confcommercio, tua, sua, di tutti. Ultima ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. Imprenditore, lavori oggi e incassi dopo 3 mesi. Non fare da banca ai tuoi clienti. La soluzione c'è, il factoring digitale di Credimi. Vai su credimi.com o chiama l'800-195-195. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Sentiamo un'arancia. Sono conveniente per la spesa e per l'ambiente. Ho residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti, meno del 70%. Questo è il succo. Fino al 22 gennaio, arance rosse Moro origine Coop a solo 89 centesimi al chilo. 1,78 la confezione da 2 kg. La Coop sei tu. Radio 24 e il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'approfondimento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live. E dalle 18.30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa, Modena, il 29 gennaio, presso la concessionaria Renault Franciosi. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. Tutti Convocati. Secondo me la distanza tra Juve e Inter non si è forzata minimamente, anche perché sono quattro giocatori che nella Juve non giocherebbero nemmeno, probabilmente farebbero fatica anche a essere in panchina, perciò credo che non sia cambiato nulla da quel punto di vista lì. Ma perché la Juventus è nei primi 10 top club al mondo? Cosa ha vinto a parte gli scudetti nell'Italietta? So. Mondo è bello perché vario anche quello dei whatsappisti. La Juventus è fra i primi 10 club al mondo, senza alcun dubbio. Cosa ha vinto al di fuori dell'Italietta, Pier? Cosa ha vinto? Vabbè, anche Eriksen farebbe fatica a fare panchina nella Juve. Poi il mondo è bello perché è vario, perché intanto se volete vi do un aggiornamento, sì. Mourinho ha appena detto che Eriksen giocherà domani da titolare nel Tottenham a Watford, e ha detto anche dovete chiedere alla gente all'Inter perché loro sanno più di me, i nerazzurri sono ottimisti, gli hanno chiesto, vuol dire che sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Quando vedo gente con responsabilità che ne parla sono un po' sorpreso. Questa è l'unica cosa che posso dire. Il giocatore sta cercando di fare del suo meglio ed è normale fino al 31 gennaio che non sia completamente concentrato. È normale in una, per conseguenza della situazione. Io continuo a non capire quell'ottimismo. Secondo me stiamo al gioco delle parti. Insomma, registriamo. Ha annunciato l'arrivo di Politano e Spinazzola al Tottenham, sì, per chiaro, continuare. No, comunque devo dire divertentissimo. Sì, è un bel venerdì 17. Il mercato, è vero che alla fine faremo la pagellina tutti il 31 gennaio, chi ha preso 8, chi 5, chi 4, chi senza voto nel caso di gennaio, poi va tutto alla prova del campo. Io ricordo quest'estate, insomma, alcuni giocatori, un anno fa parlavamo di Piontek e Paquetà, all'Inter, l'Inter sta cercando di dar via in prestito Lazzaro, che se vi ricordate è stato uno dei tormentoni di inizio estate, e non è costato pochissimo, 20. evidentemente 25. Poi il campo ti ha detto che non è un giocatore ancora pronto per l'Inter di Conte, magari lo sarà fra un anno. Fra qualche ora l'Inter saluta Gabigol, che è stata una delle storie più incredibili del mercato. Soprattutto a gennaio, perché a gennaio non hai neanche il tempo, per un motivo fondamentale, perché ci sono meno possibilità e meno nomi in giro, ma anche e soprattutto secondo me perché non hai neanche il tempo materiale per spostare giocatori, fare la preparazione, fare gli esperimenti. Quindi per questo il mercato di gennaio è un mercato che raramente ti dà qualcosa. Allora c'è Max Nerozzi, buongiorno Max Nerozzi. Ciao, buongiorno a voi. Chiediamo a lui quanto si è ridotto il gap. Certo, è per la domanda che gli togliendo facciamo. Spinazzola. Allora, da 1 a 10, quanto si è ridotto il gap? Se era 10 prima, quanto è adesso il gap tra Juventus e Inter? 7. Allora, Capuano 6, Pardo 3, io 0. No, ma io dico, scusa. Perché io a parte con la partita di Cassano era 0 prima e 0 anche adesso. Fammi capire una cosa, io dico era 10 l'anno scorso, adesso è 3, non è che dico che questo mercato lo porta da 10 a 3. Ai, perché la domanda era diversa. Mi sembri Marotta che ritratta sul prestito con obbligo e diritto di riscatto. Non sto ritrattando nulla, no, sto dicendo che se l'anno scorso il gap fra Juve e Inter era 10, adesso è 3. Max dice che mi dici che 10 giorni fa era 10, adesso non era 10. Questa cosa qui no, sì, è 7, cioè questa roba qui non è che migliora l'Inter, non è che la modifica profondamente, però secondo me l'Inter è già modificata rispetto al passato. Io ho capito il giochino di Pier, quando c'è l'ospite tifoso interista dice, poi parliamo col collega che segue la Juve. Non te lo faccio dire, ho già dato mandato ai miei legali. avvocato, prendi questa cosa di Capuano, che è lo stesso di Spinazzola. No, Max, allora risposte della Juve non ce ne saranno, no? Anche se adesso la pressione fatalmente un po' cresce. Il gatto pardo, diciamo. Il gatto pardo. Avvocato, gatto segna pure Nerozzi. Ho utilizzato la parola gatto pardo in termini lesivi della mia immagine. No, non penso ce ne saranno, nel senso che in difesa la Juve non vorrebbe fare niente. E c'è sempre in bilico il discorso di Emre Can, cioè Sarri direi che l'ha definitivamente bocciato l'altra sera, sia prima in conferenza stampa, poi sul campo, perché ormai Bernardeschi è testato la mezzala, Bentancur da cambio di Pjanic, e bisogna vedere se Emre Can troverà qualcuno qui a Casarsa a gennaio, difficile anche quella, senza la sua dipartita mi sembra dura che prendano un centrocampista. Beh, a me sembra strano invece che uno come Marciano, che giocatore a me personalmente, il che non conta nulla, piace molto, mi sembra strano che non abbia stimatori in giro. Sì, è vero, però sai, dopo che si sono impuntati, hanno fatto un po' di guerra ad agosto, penso lui voglia andare dove decide, e poi ci sono anche la valutazione della Juve che non vuole regalarlo. La situazione secondo me sia un po' complicata. Io, siamo in due stimatori a Merchan, e a me è un po' sorpreso, nel senso che tu puoi non essere il giocatore adatto per un allenatore, questo si è capito di Sarri. Sarri fece un discorso molto realista dicendo ci sono giocatori che apprendono più in fretta e altri apprendono meno in fretta, che in quattro mesi Emre Can magari non ci ha messo la voglia lui, non lo so, bisognerebbe vedere tutti gli allenamenti, però non possa giocare nella Juve, io faccio molta fatica a pensarlo. Anche perché un dirigente juventino solo quest'estate disse che Emre Can era un giocatore da Juve, un grande giocatore, tipo, non lo so. Allora, invece la situazione, allora, monitorata la Juventus dal punto di vista delle uscite, no? Per esuberi, per ragioni di, insomma, di campo, di spogliatoio eccetera, con i conti Giovanni invece come siamo messi? No, ma i conti, insomma, i conti mi sembra che Belinazzo abbia fatto la fotografia anche sì, l'altro giorno, quindi è inutile anche tornarci sopra. La Juventus sta cercando di espandersi, ha fatto un piano di investimenti, una strategia iniziata con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Chiaramente, come quando tutti compriamo casa, c'è un momento di tensione finanziaria, fai dei debiti, magari devi andare in vacanza una settimana in meno per qualche anno. Adesso sto cercando di banalizzarlo, però è chiaro che in questo momento ci sono alcuni aspetti dei conti della Juventus che in qualche modo vanno seguiti. Non è un caso che la Juventus decida di fare, la proprietà decida di fare 300 milioni di aumento di capitale, non è una cosa che si fa tutti gli anni. La Juventus non faceva un aumento di capitale dal ciclo precedente, cioè da quando post Calciopoli si era deciso di rilanciare e si era dato poi in mano tutto a un nuovo management. E quindi questa è la realtà del momento. Poi la Juventus cerca di restare aggrappata alla prima o alla seconda carrozza del treno. L'Inter sta entrando nella terza e nella quarta, stiamo comunque parlando della crema del calcio europeo anche dal punto di vista dei conti. E purtroppo, secondo me, il vero dato drammatico è che la terza italiana, che in questo momento è la Roma, fattura metà della prima. Certo, che questo dice che alla vista non c'è la possibilità che si inserisca un terzo vagone in fretta, almeno in Italia. Questo, secondo me, è il grosso perché problema il punto nostro. È crescita del calcio italiano complessivamente, che Juventus stia facendo un altro sport e l'Inter si avvia a fare lo stesso sport della Juve, mi sembra evidente. Un attimo di pazienza a tutti, traffico, torniamo subito. Che il gioco di Sarri si veda o non si veda, i risultati ad oggi sono la prova che Allegri non era indispensabile. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tour Eiffel, Big Ben, Cairo, Johannesburg, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, New York, Miami, Hollywood, San Francisco. Con Alitalia Smile Days viaggiare è contagioso, come sorridere. Solo fino al 22 gennaio tutte le nostre destinazioni in offerta a prezzi davvero imperdibili. Ad esempio Italia da 35 euro o Europa da 39 euro, volo di andata, tutto incluso, anche il bagaglio. Info e condizioni su alitalia.com. Convocati. Allora io volevo chiedere ancora una cosa a Max Nerozzi che riguarda quanto ha scritto oggi sul Corriere della Sera. Bonucci riconquistare gli ultra, torno dagli Stati Uniti e vi spiego, cronaca di ordinario mal costume calcistico e di questo dover nulla di pienamente rilevante, di legalmente rilevante, di rilevante in generale. Però questa attitudine e questa necessità quasi dei giocatori di dover avere questi rapporti con le frange più scalmanate, facciamo così, organizzate del tifo. No, sì, nulla di penalmente rilevanti, fatto bene a sottolinearlo, anche se come dal prezzo si capisce, visto che come al solito ogni volta che esce articoli così i tifosi di una dell'altra parte si incavolano. No, per me, come dicevi tu, è una radiografia di quel che forse tutti sappiamo, ma vista nero su bianco fa un altro effetto, cioè è incontestabile, e soprattutto è una radiografia di come si comportano alcuni giocatori, alcune società, come ci comportiamo tutti forse, e ricordare che quando parliamo di ultra è sbagliato dire che sono tutte persone che hanno dei problemi con il codice penale o delinquenti, tant'è, faccio un esempio, la curva della Juve tiene 6-8.000 persone, e l'avviso di fine indagine sono 29 tifosi, quindi non è che stiamo parlando di tutti delinquenti. Dopodiché è anche sbagliato rapportarsi con persone che sai che vanno allo stadio per fare altre cose. E questo secondo me è una cosa sbagliata. Dopodiché uno legge le carte di un'inchiesta che sono state depositate, quindi diciamo che sono accessibili, e poi si fa un'idea di quello che succede. Il fatto che, come dici tu, non è penalmente irrilevante può essere, diciamo, di interesse pubblico o comunque certo, di aiutare a formulare dei giudizi. Tanto per capire come vanno le cose, senti, approfitto della tua presenza, Max, di vecchio appassionato di basket, così siamo in quattro e ognuno avrà la possibilità di fare gli auguri a una leggenda. Super Dino Meneghin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Dino. Allora, ciao, il mio ricordo. Il mio ricordo. Allora, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, Max Nerozzi, che è tifoso di Torino quando era piccolo, giusto Max? No, tifoso della Virtus Bologna, essendo peggio, bolognese. Peggio ancora. Peggio ancora. E quindi Meneghin è stato sicuramente un idolo, ma puoi immaginare come ho visto io quando ero sulla Paradossa. Il mio ricordo personale invece è questo: 20 anni fa, esatti, anzi meno un giorno, Radio 24 stava nascendo e Dino Meneghin era ospite di Dario Colombo in questo programma, in modo da consentire a tutti gli ascoltatori di fare gli auguri in diretta. Noi te li facciamo quasi 70, non ancora compiuti, ma domani da Icona. Odi queste cose. Sono gli anni di una signora, quindi. Sono 70 domani. Sì, e tutti dicono. Tu, ieri leggevo le due pagine della Gazzetta con tutti quelli di tuoi amici, compagni, allenatori, eccetera. C'è qualcuno che ha detto, non mi ricordo chi era, mi piacerebbe vederlo giocare ancora adesso perché secondo me ce la fa. Vabbè, questo è esagerato. Quello è veramente un mio grande amico. Adesso non mi ricordo chi l'abbia detto, ma quello è un po' fuori. Forse Recalcati, però non ci giurerei. No, ringrazio, ma vuol dire. Con la mente sicuramente siamo tutti pronti a giocare, a scendere in campo, eccetera. Poi bisogna fare i conti con le gambe, insomma, perché l'idea va sicuramente più veloci delle gambe e si rischia di più di rompersi e poi di fare pessime figure. Quindi con la mente siamo tutti in campo. Il mio ricordo di Meneghin, metà anni 90, era quello che quando andavi nella palestra sotto al Forum, faceva il dirigente, rimediavi comunque 3 minuti di intervista, perché lui alla fine veniva lì, ti stritolava la mano e c'era comunque, tu avevi fatto la tua giornata. Sì, c'è anche se eri un ragazzo che era lì, insomma, all'inizio. Ma devo dire che tutti gli amici giornalisti, carta stampata, radio, televisione, sono sempre stati molto buoni con me, mi hanno sempre trattato con grande rispetto, per cui io di conseguenza tratto tutti con grande rispetto, anche perché ho sempre pensato di fare un qualche cosa che mi piaceva, mi divertiva, non era un lavoro, quindi mi sentivo assolutamente un privilegiato, quindi massima disponibilità con tutti, ci mancherebbe altro. Ma quante volte hai ritirato la maglia, o meglio hanno ritirato la maglia per te? Perché io ho un ricordo di fine anni 90 di una notte al Forum di Meneghin e Mike D'Antoni con il ritiro della maglia o qualcosa del genere. L'hai rifatto. No, ma io so perché era ho questo ricordo di addio di Michelino. Pierluigi Pardo, andrò a ricercare. No, volevo sapere quanti tagliafuori hai fatto nella tua vita. Se ci fai un ode al tagliafuori, è una cosa. Mi fa ancora male la schiena. Senti, Dino. Dino, l'altro giorno ho avuto il piacere di passare un pomeriggio con uno che conosci un po', Dan Peterson. Ovviamente si parlava anche di te, e lui mi diceva: Messina, lo vedo un po' in difficoltà. Tu? Ma guarda, tu parli di Messina, coach dell'Olimpia, sicuramente ha davanti a sé un grandissimo lavoro da fare, perché deve assemblare un gruppo nuovissimo di giocatori che devono imparare a conoscersi, a non pestarsi i piedi, eccetera. I giocatori a loro volta devono capire quale sia la filosofia tecnica, tattica di Ettore e quella dell'allenatore, quindi ci vuole tempo purtroppo in queste cose. Avendola vissuta in prima persona in campo, anche quando si cambiava uno o due stranieri o due giocatori, ci voleva tempo perché tutto funzionasse alla meraviglia. È come un po', sai, un canottaggio lotto con, no? Per cui tutti devono remare dando retta al con, al navigatore, si chiama al timoniere. Al timoniere, esatto. Basta che uno sbagli il tempo, eccetera, che i remi si incrociano e diventa tutto un casino. Per cui ci vuole tempo per assemblare le idee, le teste, far capire a tutti che quale sia lo spazio giusto, quello che si pretende da loro. Quindi diventa difficile. Penso che, anzi, sono sicuro che la vera Olimpia si vedrà nella seconda parte del campionato e chiaramente per quanto riguarda anche l'Eurolega. C'è da lavorare, però tempo non ce n'è tantissimo, ma l'intelligenza dell'allenatore e dei giocatori sicuramente c'è. Tanti auguri, Dino. Un abbraccio mille, forte. Grazie mille. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao. Dino Meneghin. Giovanni Caporo, ci vediamo domenica. Domenica in diretta 17, grande domenica, perché c'è il Milan alle 12.30, l'Inter a Lecce alle 15, qualsiasi la Roma alle 18, cosa. La Juve che chiude alle 20.45, domani vediamo il Napoli, la Lazio, quindi insomma c'è da raccontare tanta tanto. Roba. Io ringrazio anche Max Nerozzi naturalmente, Pierluigi Paro, ci sentiamo domenica. Ciao Max e Claudia Schiattone, il nostro autore, Gianmarco Fernati in regia, ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.